Se fa venir per ora sole, l'utempe bella della contentezza. Quando pazziavamo a vola a vola, e te cupre de vace de carezze. E vola, vola, vola, vola, e vola lu pavone, si tiene un cuore buone. Fammi ci approvare. E vola, vola, vola, vola, e vola un pavone, si tiene un cuore buono, no, fammi ci approvare. Una volta per spegnare un fazzoletto, sono state condannate e basciarte. Fatte rosce, mesci di te, di inginocchiarmi prima d'abbracciarte. E vola, vola, vola, vola, l'ugallina c'è, mo si ti guarda in faccia, mi pare di sognare. E vola, vola, vola, vola, l'ugallina c'è, mo si ti guarda in faccia, mi pare di sognare. Fiore nasce a primavera, l'amore nasce dalla citilanza. Mari se mi va bene come ieri, ne mi vola sto sogno e sta speranza. E vola, vola, vola, vola, e vola l'ucardille, l'uvascia pizzichille. Le può negar. E vola, vola, vola, vola, e vola l'ucardille, l'uvascia pizzichille, ne mi le può negar. E vola, vola, vola, vola, e vola l'ucardille, l'uvascia pizzichille, ne mi le può negar. L'uvascia pizzichille, ne mi le può negar.